30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. I prezzi degli alimentari sono destinati a rimanere sostenuti, forse addirittura a crescere, e saranno comunque caratterizzati da grande volatilità. Lo sostiene The State of Food and Security in the World, redatto dall'Organizzazione ONU per l'Alimentazione e l'Agricoltura, dall'AIFA, il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo, e dal PAM, il Programma Alimentare Mondiale, pubblicato questa settimana. Secondo il rapporto, il rischio cadrà soprattutto sui piccoli paesi dipendenti dalle importazioni e in particolare su quelli africani. Quanto costa mangiare? Quanto di ciò che guadagniamo viene speso per assicurare il cibo a noi, alle nostre famiglie? Ancora, in che modo i prezzi condizionano la qualità dell'alimentazione, dunque della salute? È poi vero che nei paesi più poveri fenomeni come quello del land grabbing, dunque dell'accaparramento di terre coltivabili da parte di stati e società private, risponde anche alla paura che, mentre la popolazione supera quota 7 miliardi, il cibo possa non bastare per tutti? Ancora un saluto, cari ascoltatori, da Gigi Donelli. Eccoci dunque alla vigilia della Giornata Mondiale dell'Alimentazione, a parlare di cibo, dunque, in un mondo in cui l'insicurezza alimentare resta un problema quotidiano per milioni di persone, ma che diventa un tema economico anche nei paesi a reddito più alto come il nostro, dove, pensate, si spendono 200 miliardi di euro l'anno per mangiare, 144 dei quali a casa, 71 miliardi per mangiare fuori. Ecco, ma questa sera noi parliamo del cibo collettivo, dei grandi sistemi e dei grandi meccanismi di produzione. Ci aiuta a farlo il nostro ospite, il professor Roberto Pretolani. Pretolani è professore ordinario di economia ed estimo rurale alla Facoltà di Agrario dell'Università degli Studi di Milano, titolare dei corsi di economia e politica agraria. Professore, grazie e buonasera di essere con noi. Buonasera a lei, Donelli. Dunque, partiamo dai soggetti vulnerabili, milioni di persone che hanno poco margine di adattamento alle variazioni dei prezzi. Allora, quanto costa mangiare in termini percentuali in uno dei paesi a basso reddito, magari dell'Africa, quanto invece in Europa? Allora, ci sono differenze sostanziali. Nei paesi più poveri siamo a cifre che arrivano intorno al 70-80% del proprio reddito che viene usato per l'alimentazione, contro valori che da noi sono intorno al 15-20%, quindi la differenza è molto sostanziale. Ecco, 70-80%, dunque il margine davvero è molto sottile, e di conseguenza è sottile quel passaggio tra la difficoltà e invece la vera e propria emergenza. D'altra parte, la riduzione della povertà è strettamente legata all'accesso alle risorse. Per anni siamo stati un po' cresciuti con l'idea che, viaggiando in un paese povero, avremmo avuto del cibo magari semplice, poca scelta magari, ma a basso costo. Poi qualcosa è cambiato, fino al punto in cui al Cairo, per esempio, nel 2008 abbiamo visto assalti ai forni, mentre a Tunisi i manifestanti, che hanno spinto alla caduta del presidente Ben Ali, brandivano minacciosi delle baguette. Che cosa è cambiato intorno al 2007? Allora, è cambiato, oltre alla crisi internazionale, ma in qualche modo la crisi dei prezzi dei prodotti agricoli e alimentari ha anticipato un po' la crisi generale dell'economia, è cambiata la percezione di una risorsa che si credeva fosse quasi inesauribile come il cibo, una risorsa limitata. E soprattutto è cambiato anche un aspetto legato alla progressiva urbanizzazione, nel senso che finché le popolazioni rimangono nelle campagne, il grosso del cibo viene autoprodotto e quindi c'è una possibilità di alimentazione, a seconda degli anni, più o meno abbondante, ma quando si è nelle città bisogna acquistare il cibo, e questo è un problema che comincia a essere molto complesso, proprio perché c'è tutto il problema dello spostamento, della conservazione di questi cibi nei paesi in via di sviluppo, che è un problema abbastanza complicato. Insomma, da un lato c'è un'indicazione complessiva di maggiore cibo, di maggiore accesso al cibo per le popolazioni più povere, dall'altro l'effetto dell'inurbamento che impone un sistema, una complessità infrastrutturale maggiore, che però non c'è. Ma una domanda vorrei farle prima di proseguire. Oggi, 2011, c'è o non c'è cibo per tutti? Ma sostanzialmente il cibo oggi c'è. Il vero problema è che il cibo è distribuito male. Noi abbiamo avuto negli ultimi 50 anni un raddoppio della popolazione mondiale, siamo arrivati appunto ai 7 miliardi e il cibo è aumentato 3 volte. Quindi abbiamo, ciascuno di noi ha a disposizione il 50% in più di cibo di quello che aveva a disposizione 50 anni fa. Il grosso problema però è la distribuzione tra i paesi ricchi e i paesi in via di sviluppo, tra i paesi cosiddetti emergenti. Pensiamo alla forte domanda che si sta generando di prodotti con maggiore contenuto in paesi come la Cina, come l'India, come il Brasile, cioè in tutte le tigri asiatiche, e dall'altro al fatto che in alcuni paesi ci sono fenomeni che sono legati sia a fenomeni naturali come la siccità, sia a problemi più generali come le guerre, che hanno portato a un generale impoverimento di queste popolazioni. I cereali sono la base dell'alimentazione, ma sono anche la base della trasformazione alimentare. La Cina, in fondo, è un esempio classico, ma ottimo. Se ciascun cinese legittimamente aspira a mettere in tavola delle proteine animali, bene, una parte del grande raccolto mondiale dei cereali dovrà finire nell'alimentazione degli animali di allevamento. Ecco, ma quanto è importante questa quota e quanto incide nelle difficoltà attuali? È una quota rilevante, tanto per dare l'idea, proprio i dati della Cina. In questo momento abbiamo avuto un progressivo spostamento dei consumi dei cereali da consumi alimentari a consumi per gli animali. La Cina negli ultimi 10 anni ha aumentato questa percentuale del 5-6%, ma in termini assoluti l'ha aumentata almeno di 10 kg a testa, e contemporaneamente è aumentata la produzione di pollame, di varie carni, di carne suina, ma anche per esempio la produzione di latte, un fenomeno nuovissimo. La Cina praticamente non produceva, non consumava latte. Nel giro di pochi anni siamo passati da un consumo di 1 litro a testa all'anno, quindi pochissimo, a oltre 20 litri. Quindi ci sono cambiamenti rapidissimi e molto forti, e poi su una scala di popolazione ovviamente enorme. Molto grande, enorme, di questi tipi di consumi. Quindi si generano dei fenomeni che sono molto forti. Questo si collega poi alla necessità di approvvigionamento delle materie prime. Non è un caso che la Cina sia tra i paesi più attivi nella ricerca di terre al di fuori del proprio Stato, soprattutto in Africa, per la coltivazione di prodotti che poi vengono o trasformati localmente oppure trasformati in Cina e destinati alla popolazione interna. Insomma, la dispensa nazionale diventa un problema per molti Stati. Poi ci torneremo tra qualche minuto, ma prima di questo vorrei approfondire un aspetto che riguarda la capacità di aumentare la produzione interna. In fondo è vero che adesso si fa un gran parlare, noi stessi ne parleremo di land grabbing e di queste tematiche, però da un punto di vista della produzione è molto più sicuro produrre all'interno dello Stato. Non si sa mai cosa può succedere a un campo distante 5.000 chilometri. Ecco, siamo arrivati al limite, siamo arrivati al punto per cui, nonostante la sicura capacità di investimento dei cinesi, insomma, dal campo di riso più di tanto non si può più produrre? No, io non credo che sia così. Noi abbiamo una serie di dati che ci dicono che la produzione, parliamo soprattutto di cereali, continua a crescere. Negli ultimi 5 anni è cresciuta del 7-8%, quindi abbiamo il fatto che, mentre nei paesi avanzati come il nostro le rese produttive non aumentano più di tanto e le superfici coltivabili sono ormai limitate, nei paesi in via di sviluppo le rese sono ancora notevolmente inferiori, quindi, e crescono a un livello rilevante, quindi prima o poi si raggiungeranno. Il vero problema è stimolare questo raggiungimento attraverso delle tecnologie appropriate a questi paesi, che non vuol dire portare tutta la nostra modalità di coltivazione, ma sicuramente c'è la possibilità per questi paesi di incrementare molto la produttività. Quindi io non vedo in questo momento una difficoltà di produzione. Certamente ci sono una serie di problemi, Sta di fatto che la FAO ci ha detto l'anno scorso che da qui al 2050 dovremo aumentare la produzione agricola complessivamente del 70% per rispondere all'incremento di popolazione e all'incremento dei consumi di prodotti animali, e questa è una grande sfida. 30 minuti in cronaca. Aumentare la produzione di cibo del 70% sembra, come dire, una misura persino impressionante, un dato che spaventa, quantomeno se lo si lega a quegli allarmi che da alcuni anni scuotono il mondo. Si parla di difficoltà a aumentare la produzione, di difficoltà di accesso alla produzione anche di base, quella dei cereali, e si parla e si assiste, perché non sono parole, sono fatti, a dei meccanismi di acquisizione di terre all'estero. Poco fa ne parlavamo con il professor Pretolani e citavamo il caso cinese. Mi piace ricordare anche l'Arabia Saudita, Dubai, il Qatar, investimenti di paesi che sono emblematici da questo punto di vista, sono ricchissimi ovviamente di petrolio, ma non certo di terra da coltivare. L'Arabia Saudita è un paese che da 30 anni sviluppa dei tentativi agricoli anche di successo, ma a costi enormi, e che invece negli ultimi anni si è accorta che può essere più pratico affittare a lungo termine, di solito sono contratti di leasing a 99 anni, dei territori in Etiopia, in Sudan, piuttosto che in Kenya e così via, e coltivare lì i prodotti alimentari. Ecco, professore, questo tipo di atteggiamento, secondo lei, rappresenta, come dire, è una sorta di scossone post-crisi del 2007 sensato, risponde a un vero allarme o è anche in qualche modo una moda di questi anni? Ma certamente c'è un effetto, che forse più che moda, chiamerei quasi di necessità, da parte di alcuni paesi di aumentare le proprie risorse, visto che all'interno del proprio territorio non hanno a disposizione terreni coltivabili oppure decidono di non utilizzarli da questo punto di vista. Come tutti i fenomeni, ha degli aspetti negativi che certamente sono importanti, ma anche può avere degli aspetti positivi. È negativo nel momento in cui ovviamente si sottraggono risorse all'agricoltura locale. Però spesso e volentieri si prendono dei terreni che non sono mai stati coltivati o sono stati coltivati in modo molto molto estensivo attraverso la pastorizia, e si introducono delle tecnologie che possono avere anche una ricaduta sui territori locali. Io ho avuto la possibilità di seguire alcuni di questi progetti che coinvolgono personale locale. Ci sono molte modalità, ecco, diciamo che normalmente i cinesi tendono a portare anche la loro manodopera, le loro tecnologie, quindi essere in un recinto chiuso, invece altri paesi utilizzano risorse locali, e questo può diventare una possibilità di trasferimento tecnologico, perché per imitazione, per contagio in qualche modo, le tecnologie che vengono utilizzate per queste coltivazioni destinate ai paesi industrializzati o ai paesi in via di sviluppo poi possono essere utilizzate anche localmente, quindi questo potrebbe essere un effetto positivo. Noi siamo abbastanza abituati, direi, quantomeno al supermercato, a vedere sulle etichette di alcuni prodotti dei luoghi di provenienza, anche esotici, ovviamente, come dire, in particolare soprattutto con la frutta. Ma quando si tratta di beni primari, di prodotti di base, ecco, fino a che punto c'è una vera mobilità internazionale dei prodotti alimentari? Ma dunque, la mobilità internazionale è cresciuta notevolmente negli ultimi anni. Però è ancora tutto sommato modesta rispetto al complessivo movimento, alla complessiva produzione delle merci. Tanto per dare un'idea, rispetto alla produzione di cereali, posto 100 il totale, solamente 16% dei cereali vengono scambiati, per alcuni prodotti è ancora inferiore. Certamente abbiamo dati poi superiori, so, per lo zucchero il 30%, per il cacao, il caffè arriviamo a percentuali dell'80-90% di prodotti che vengono esportati, però ancora il commercio internazionale, sia pure in crescita, e questo ovviamente è l'effetto l'effetto della globalizzazione, abbiamo delle quote che sono ancora limitate, cioè il grosso rimane all'interno dei paesi di produzione. Il fenomeno nuovo è che c'è stata una vera globalizzazione dei mercati, cioè mentre prima i vari mercati erano abbastanza impermeabili tra di loro e i prezzi locali non seguivano l'andamento internazionale delle merci, attualmente c'è una trasmissione quasi immediata dei prezzi dal livello internazionale a livello locale, questo dato anche dalla diffusione dell'informazione che comincia a diventare accessibile anche da parte di questi paesi. Ecco, questo, se ho ben capito, penalizza soprattutto il consumatore locale. Certo, penalizza il consumatore locale, però contemporaneamente anche il rapporto della FAO lo mette in evidenza, prezzi elevati dei prodotti agricoli penalizzano i consumatori ma favoriscono i produttori agricoli. Certo. Quindi da questo punto di vista c'è una possibilità di crescita del reddito per i produttori che non dobbiamo trascurare, quindi anche una sorta di disincentivo alla fuga dalle campagne che in questi paesi ancora sta avvenendo. Abbiamo detto prima i problemi che portano all'inurbamento. Certo. Se le persone possono rimanere a coltivare e hanno prezzi elevati, ovviamente questo scoraggia anche fenomeni che sono forse più preoccupanti. Il vero problema non è tanto l'elevato livello dei prezzi, che sicuramente ha una serie di aspetti negativi, quanto la forte volatilità di questi prezzi che nel giro di pochi mesi aumentano o diminuiscono del 20-30%. Una grande instabilità, insomma. Certo. Ecco, in una battuta, in un minuto, bioenergie, verità o mito in parte? Insomma, quanto incide l'utilizzo di cereali per appunto produzioni non alimentari su questa complessità? Allora, al momento la percentuale è ancora abbastanza limitata, tanto per dare un'idea siamo al massimo intorno al 10% di utilizzazione dei cereali per produzioni non alimentari, che ci porta alla produzione per esempio di amido, che è già tradizionale, la produzione di energia in questo momento intorno al 4%, quando era circa l'1% 20 anni fa. Quindi è un fenomeno che sta crescendo, è un fenomeno che va guardato con attenzione. Ci sono diverse scuole di pensiero, c'è chi dice che l'aumento della produzione potrebbe portare anche a tranquillamente usare una parte dei cereali per la produzione di bioenergie, c'è chi invece mette l'accento sulle difficoltà, sulle tensioni che questi utilizzi comportano. C'è un grafico che è stato pubblicato più volte, che è il rapporto tra i prezzi del mais e il prezzo del petrolio. C'è stato un momento in cui il prezzo del mais era influenzato dal prezzo del petrolio, se il petrolio aumentava, aumentava anche il mais. Ultimamente però abbiamo visto un fenomeno diverso, cioè mentre il prezzo del petrolio è diminuito, il prezzo del mais non lo è, quindi non è detto che questo legame ci sia e influenzi effettivamente i prezzi. Come la benzina, insomma, il prezzo del petrolio sale e scende, la benzina resta alta. OGM, esatto. 10 anni fa erano presentati come la chiave da un lato, dai sostenitori, il diavolo dall'altra. Oggi, nella migliore delle ipotesi, se ne parla molto poco. Ma diciamo che forse è meglio, perché il grosso dell'informazione era sulla parte del diavolo. In realtà molti si stanno rendendo conto che gli OGM possono essere una delle soluzioni, non è sicuramente l'unica, ce ne sono altre, ma soprattutto sono le tecniche del trasferimento dei geni che all'inizio erano tra specie diverse, oggi si stanno diffondendo all'interno della stessa specie, quindi sostanzialmente con molti meno problemi, quindi si utilizzano geni, si trasferiscono geni di una pianta all'interno della stessa pianta in modo molto più rapido, facendo quello che si faceva una volta con i tentativi della creazione degli ibridi, quindi è una strada, una fase più matura, secondo lei? È una fase più matura. Perfetto. Sicuramente, ecco, stiamo uscendo da questo, almeno spero, da questa cosa, io sono da questa fase emotiva. Professore, alla fine lavoro, acqua, terra, innovazione tecnologica, insomma questo colma, riempie il piatto, ma allora la produzione alimentare ovviamente ha i suoi vincoli, ha i suoi tempi. Oggi lei quale identifica come fattori critici perché la questione appunto dei prezzi e dell'instabilità, che poi si trasferisce nelle famiglie, soprattutto ovviamente quelle a basso reddito, possa essere gestita in maniera corretta negli anni a venire? Ma diciamo che ovviamente questo è un problema in gran parte di politiche. Abbiamo visto anche dal punto di vista delle politiche da parte dei paesi di fronte alla crisi alimentare dei prezzi del 2008 atteggiamenti molto emotivi, come il blocco delle esportazioni piuttosto che la tassazione sulle esportazioni, oppure una serie di provvedimenti che era anni che non vedevamo più. Però oggi la riflessione è sicuramente un po' più matura anche da questo punto di vista. Non è un caso che uno degli obiettivi principali della riforma della politica agricola comune, che è stata proposta proprio l'altro ieri dalla Commissione europea, sia il mantenimento anche nell'Europa di una produzione di cibo sufficiente per garantirci l'approvvigionamento alimentare. Questo è un fattore chiave, perché non possiamo permetterci di non produrre nei paesi avanzati pensando che poi possiamo importare i prodotti. Questo, insomma, uno scossone del 2007-2008 che ha ricordato a noi, come ad altri paesi ricchi, prima abbiamo citato gli Emirati, che nei momenti di crisi persino alcuni governi africani disponibilissimi a vendere hanno dovuto bloccare l'esportazione di certi prodotti alimentari perché rischiavano di essere travolti dalla protesta. Io ringrazio il professor Roberto Bertolani di essere stato con noi, lo ricordo, è ordinario al Dipartimento di Economia e Politica Agraria all'Università di Milano. Grazie davvero e buonasera professore. Grazie a lei, buonasera. Bene, siamo in conclusione. Ovviamente mi piace però ricordarvi che in queste giornate legate al cibo ci sono appuntamenti importanti, appuntamenti e mostre che aprono, una delle quali a Milano, al Museo della Scienza e della Tecnica, proprio dal 16 ottobre, una mostra che si chiama Buon Appetito, mostra interattiva per i ragazzi e le famiglie. Ho avuto occasione di visitarla ieri, ve la consiglio, è davvero un modo divertente e interessante per cominciare a conoscere alcuni meccanismi della produzione alimentare, della distribuzione e naturalmente anche della salute, fattori importanti oggi, ieri, domani ovviamente, che riguardano tutti noi. Siamo dunque alla fine, non mi resta che augurarvi un ottimo fine settimana a tutti. L'appuntamento con 30 minuti in cronaca torna sabato prossimo, a presto.